situazione purtroppo drammatica. Abbiamo al momento 1600 vigili del fuoco che stanno operando. Purtroppo abbiamo avuto un lutto nel nostro corpo nazionale dei vigili del fuoco, è deceduto un collega caposquadra, lo stress e la stanchezza quindi ha avuto un valore. Stiamo lavorando in maniera instancabile cercando di tirare fuori dalle macerie le persone, sperando che alcune ancora siano in vita. Abbiamo gli elicotteri, abbiamo l'unità cinofili che con i cani stanno lavorando proprio per vedere se c'è ancora qualche fonte di vita tra le persone ancora che risultano disperse. Come vigili del fuoco, i primi che interveniamo, chiaramente, oltre a prestare soccorso alla popolazione, dobbiamo un po' fare anche i psicologi nei confronti di queste persone che purtroppo vanno incontro magari a situazioni molto gravi, quali decessi o feriti o d'altro.